dove deve arrivare. Il grido che lasci mettendo in rima parole che brancoleranno da sole. Che tu solo le ascolti vibrare e narrarti il silenzio di inutili ore. Io vorrei vederla, vederla viaggiare, una canzone per poterti parlare. E colmare in un attimo gli anni persi a doverti inventare, inventando ogni giorno la vita, questa vita che sembra ogni giorno sia uguale. Io chiedo queste mie poche parole di solcare lo spazio e il tempo, ed innanzi a lei raccontargli quello che sento, se ha un senso, se ha un senso. Giocato con quello che resta, ho truffato il ricordo e vivo ancora, aggirandomi senza rancore, tra i silenzi di giorni che lascio senza amore, portando dietro solo stanche parole, come pegno del nostro tempo, quel che fu di noi. E la musica che ho dentro adesso tirando. Ma quali strade, quali immensi e straordinari cieli dovrà percorrere un grido prima che arrivi, prima che possa essere ascoltato. Ma se invano si spegne o si perde nel vuoto, o confuso tra gli altri, lo vedrò morire. Non importa la canto, quest'anima salva questa vita che guardo passare.